pietà di voi qua vadano e gli altri vada là e pian pianillo cerchino lontan non fia di qua no lontan lontan non fia di qua se un uomo e una ragazza passeggia per la piazza se sotto una finestra fare all'amor sentite ferite pur ferite ferite pur ferite il mio padron sarà in testa e gli un cappello con candidi pennacchi e addosso gran mantello e spada al fianco e già e spada al fianco e già e spada al fianco e già e spada al fianco e già e spada al fianco e già se un uomo e una ragazza passeggia per la piazza se sotto una finestra fare all'amor sentite ferite ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là, e pian pianillo cerchino, lontan non fia di qua, no, lontan, lontan non fia di qua. Andate, fate presto! Andate, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto! Tu sol verrai con me, tu sol verrai con me, verrai con me, verrai con me. Noi far dobbiamo il resto, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è. Noi far dobbiamo il resto, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è. Ottimamente. Dunque, dobbiamo ucciderlo. Sicuro. E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle. No, no, voglio ammazzarlo o farlo in 100 brani. Hai buone armi? Aspetto, ho pria questo moschetto e poi questa pistola. E poi? Non basta. E basta certo. Or prendi questo per il moschetto e questa per la pistola. Vai, hai la testa mia. Taci o t'uccido, questa per ammazzarlo e questa per farli in brani. Villano mascalzon, ceffo da cani. Ai ai, la testa mia, ai ai, le spalle e il petto. Di sentire mi parve la voce di Masetto. Oddio, Zerlina, Zerlina mia, soccorso. Cosa è stato? L'iniquo il scellerato mi ruppe l'osso e i nervi. Oh, poveretta me, che? Leporello, oh, qualche diavol che somiglia a lui. Crudel, non te dissio che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo. Dove ti duoli? Qui. E poi? Qui e ancora qui. E poi non ti duol altro? Duolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano. Via, via, non è gran male se il resto è sano. Niente ne becco a casa, purché tu mi prometta d'essere mia.